Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Gentile direttore, la mia domanda è molto semplice. Che fine ha fatto la proposta di abolire le province? Perché non se ne parla più, nonostante sia una delle possibilità più trasparenti per ridurre i costi della politica? Mario. Caro Mario, nel corso dell'ultima campagna elettorale l'abolizione della provincia era stata rilanciata, pur con qualche distinguo, sia dalla maggioranza e dallo stesso Berlusconi, sia dall'opposizione che con Veltroni aveva indicato proprio con questa riforma uno dei modi per ridurre la spesa pubblica. Ma passate le elezioni, sul tema è sceso un grande silenzio. La ragione è una sola. Il governo ha tra le sue componenti essenziali la Lega e la Lega non ha mai nascosto la sua netta opposizione all'abolizione delle province. La ragione è facile da intuire. Un partito che ha una forte base territoriale ha tutto l'interesse a mantenere quanto più possibile posizioni di controllo a livello istituzionale e le province sono tra queste. La ragione del perché non si parli più di abolizione delle province è quindi strettamente politica. Da un profilo amministrativo e di riduzione dei costi, la strada resta invece del tutto valida ed anzi necessaria. Il livello politico delle province, i consigli, le giunte, i presidenti, potrebbe essere facilmente integrato in quello delle regioni, lasciando intatte le competenze tecniche degli uffici, che su base provinciale si occupano di scuole, di strade, di promozione turistica o di salvaguardia ambientale. Le importanti competenze tecniche delle province potrebbero quindi restare immutate, salvo dipendere da una strategia politica decisa a livello regionale. Ma, come detto, su questa strada per tagliare gli ancora troppo alti costi della politica c'è un veto, tutto politico. La legge prevede che la lista elettorale venga consegnata entro le ore 12, ma non specifica cosa fare se vi è coda agli sportelli, come è prevedibile che sia, dato che i raccoglitori di firme sfrutteranno sino all'ultimo minuto. Se non vi è un numero di sportellisti sufficiente per smaltire entro le ore 12, la coda che si è formata alle 11.59, quando questa si ferma, si blocca l'afflusso di nuovi affluenti? Nel caso in questione, i pubblici ufficiali sono usciti, hanno fatto un'indagine con metodo sommario e arbitrario e hanno valutato che il metodo adottato per includere ed escludere fosse corretto, addirittura dichiarando di aver fatto delle domande alle persone in coda, persone in pieno conflitto di interesse e che avevano tutto il vantaggio del mondo ad escludere un concorrente. Una democrazia ha come fondamento l'atto stesso del voto e quindi della costituzione della lista elettorale e sicuramente il funzionario PDL ha commesso una leggerezza proporzionale alla sacralità del punto precedente. A mio parere, con l'aiuto dei partiti concorrenti che vogliono giustamente utilizzare la debolezza dell'avversario ai propri fini, si sta confondendo l'indignazione di fronte allo scandalo della leggerezza del funzionario PDL con la sostanza fondativa della democrazia. Sul piatto della bilancia vi è l'atto fondativo del voto, confrontato con un metodo arbitrario di chiusura di uno sportello e la leggerezza di un funzionario. Qui non vi è certezza di forma, e in assenza di certezza di forma essa non può essere sostanza. Davide Biella. L'errore del centrodestra è di avere fatto un decreto legge, e basta. Per il resto sono solo caduti in una trappola, ordita dai radicali, come è ormai notorio. E in queste ore la sinistra e Di Pietro ne stanno approfittando per attaccare, sapendo di essere perdenti. Quindi dire non voto centrodestra è proprio fare il gioco di chi attacca, per poi favorire Di Pietro e i suoi amici giustizialisti. Francesco. Egregio direttore, a 10 anni di distanza dall'avvio dell'Unione Monetaria, dopo tutto quello che è successo negli ultimi anni, è davvero sconcertante constatare come ancora qualcuno non abbia capito granché della situazione e proponga impossibili ritorni alla lira, accusando l'euro di essere pressappoco la fonte di ogni male economico. Addirittura qualcuno afferma che l'unico modo per salvare il settore manifatturiero italiano sia tornare ai tempi delle svalutazioni selvagge, che erano proprio un mezzo per non affrontare il problema della competitività delle aziende, finendo poi per addossare inevitabilmente a tutta la comunità gli oneri delle conseguenze della scarsa propensione ad innovare e della perdita di potere d'acquisto della moneta. In base a non si sa quali misteriosi calcoli, questo ritorno alla cara vecchia lira, all'epoca disprezzata da tutti per la sua debolezza endemica e la sua simbolica trafila di zeri sulle banconote, andrebbe niente meno che a creare da subito grandi aumenti del PIL, incrementi del turismo, rinascite del settore in questione e chi più ne ha più ne metta. Campa a cavallo che l'erba cresce. È arrivata l'ora di finirla con tutto questo semplicismo. È ora di capire che l'euro ha portato solo vantaggi, aumentando la solidità del blocco europeo e mettendoci al riparo da situazioni come quell'inflazione a due cifre e quei tassi di interesse stratosferici che ben ricorda chi ha più di 35 anni. È semplicemente assurdo volere il ritorno alla situazione precedente, dopo che, a dire di chiunque se ne intenda un po' di economia, in Italia abbiamo probabilmente evitato una specie di catastrofe grazie al fatto di avere una valuta decente. Questa bella favola dello svaluto ammuzzo e risolvo tutti i problemi, invocate in continuazione come fosse la panacea di ogni male, mi fa venire in mente Pinocchio nel campo dei miracoli. Sergio, Pavia. La scomparsa di Tonino Carino mi ha riportato indietro nel tempo, alla mia infanzia calcistica, quando il calcio era quasi poetico per molti aspetti. Non sarà stato un modello giornalistico per quanto concerne lo stile, ma richiamava ad un calcio vero, fatto di genuinità, che profumava di erba e non di sponsor, doping e arbitri accomodanti. Mitica la sua frase: «La Juventus ha dimostrato di essere la squadra più forte del campionato, forse d'Europa, ma con l'Ascoli di oggi c'era ben poco da fare». Gianluca, da Torino. Mi sento triste e arrabbiato. Triste perché se n'è andato un altro pezzo della mia infanzia, oltre che ad una persona per bene e un ottimo professionista come Tonino Carino da Ascoli. Lo ricordo con la sua cuffia e i suoi occhi sempre allegri. Rimpiango quel tipo di giornalismo, che non credo sia migliorato oggi, con tutte le innovazioni tecnologiche. Mi piace pensare che il mitico Tonino oggi sia vicino a Paolo Valenti, pronto a commentare i servizi su qualche nuvoletta, cercando di non guardare alle triste realtà del nostro campionato. Non so come avrebbe commentato la notizia della morte dello speaker avvenuta in una partita di Serie D. Per quello sono arrabbiato, perché pensiamo a come andrebbero educati i tifosi e poi, quando viene fermata una partita per un lutto avvenuto in uno stadio, la federazione punisce quella società con la sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione. Io vorrei che il presidente di quella squadra diventasse presidente della federazione, al posto di quello attuale. E vorrei abbracciare i familiari del povero speaker. Il calcio è un gioco, bellissimo, ma un gioco, mentre a quanto pare vale più di tutto, vita umana compresa. Manuela. Lo sport ascolano e marchigiano è in lutto per la morte del grandissimo Tonino Carino. È stato il protagonista di epiche puntate di 90esimo minuto, quella stupenda trasmissione di allora a cura di Paolo Valenti. Dopo la partita di calcio, noi ragazzini con i papà, erano gli anni 70-80, ci affrettavamo a tornare dallo stadio per vedere e ascoltare le immagini TV e sentire i commenti di Tonino Carino d'Ascoli. Era sempre un lieto evento vederlo e ascoltarlo, complici le sue bellissime e ingenue gaffe che lo hanno reso famoso tra gli sportivi di tutta Italia, con grande simpatia anche grazie al suo spessore umano. A Tonino va il ringraziamento di tutto il popolo bianconero e di tutti gli sportivi delle Marche per aver portato a tutta l'Italia il simbolo della marchigianità, in particolar modo dell'ascolanità, che unisce semplicità e laboriosità e la fierezza delle proprie origini picene. Ora riposa in pace, Tonino, e grazie, immensamente grazie, per i momenti di letizia, ma anche di fierezza che ci hai fatto trascorrere davanti alla TV, per l'umanità e la semplicità che hai cercato di trasmettere a tutti, che nascevano dalle profonde radici della tua cultura e tradizione picena. Pietro, da Ascoli Piceno. Molte aziende italiane nel settore industriale sono in difficoltà per la concorrenza sleale di aziende coreane, cinesi e saudite che hanno aiuti di Stato e possono fare anche azioni di dumping. Perché, soprattutto per alcuni mercati specifici in aree geografiche particolari, anziché utilizzare le risorse dopo, come ammortizzatori sociali, lo Stato italiano non pensa di dare aiuti alle aziende italiane prima, durante la fase di investimento e produzione. Una competizione sportiva ha le stesse regole di base e lo stesso dovrebbe avvenire anche per la competizione tra aziende in un mercato globale. Umberto. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.